pensando trovare la via scorta un Dio andasse sicuramente. Allora guardai e posi mente e non vidi via né una. L'aria era molto scura, il tempo nero e tenebroso, e io, come un pauroso, ritornai per l'Oromito da cui mi era già partito ed una voce l'appellai. Sì, gli dissi io, per Dio, se tu sai lo cammino, or lo mi insegna, ch'io non so ed on Dio mi tegna. Quegli allora mi guardò e con la mano mi mostrò e una croce nel deserto, lungi ben 10 miglia, certo, e disse: colà è lo cammino, onde va catuno pellegrino che vada o venia d'oltremare. A questa mi mossi ad andare verso la croce bellamente e quasi non vedea niente per lo tempo che era oscuro e il deserto aspro e duro. E all'andare ch'io facea verso la croce, tuttavia, si vidi bestie ragunate che tutte stavano apparecchiate per pigliare che divorassero se alcuna pastura trovassero. Ed io ristetti per vedere, per conoscere, per sapere che bestie fossero tutte queste, che mi pareano molte alpestre. Sì, vi vidi un grande leofante, ed un verre molto grande, ed un orso molto superbio, ed un leone, ed un gran cervio. E vidivi 4 leopardi, e 2 dragoni con rei sguardi. E sì, vi vidi lo tigro e il tasso, ed una lonza e un tinasso. E sì, vi vidi una bestia strana, cuomo appellava Baldivana, e si vividi la pantera e la giraffa e la paupera e il gatto padule e la lea e la gran bestia baradinera ed altre bestie vividi assai, le quali ora non vi dirai che non è tempo né stagione. Ma sì, vi dico per San Simone che me ne partì per maestria dalle bestie ed andai via e cercai tutti i paesi che voi da me avete intesi e tornai allo mio ostello. Però finisco che fa bello. For della bella bella caiba, fugge lo lisignolo, for della bella bella caiba, fugge lo lisignolo, for della bella bella caiba, fugge lo lisignolo, for della bella bella caiba, fugge lo lisignolo, for della bella bella caiba, fugge lo lisignolo, for della bella bella caiba. Genti, intendete questo sermone. Ruggeri ha fatto la sua passione. Non trovai dritto né ragione in quelle false persone. Cioè in Siena, là io sono istato, fui cresciuto e allevato. Da miei nemici fui accusato al vescovo e al chericato. L'accusamento fu creduto, iscritto e letto e ritenuto. Mandò per me il forte arguto. Non mi valse cascione né scuto. Io fui giunto innanzi lue, solo nato era, e non con altrui, e gli erano 100 ed ancora più, che si consigliavano a 2 a 2. Erode Vera e Gaifasso, e Pilato e Setenasso, e Longino e Giudeasso, e Marcus e Barnabasso. Quinziano Vera e Nerone e Staroto e Ferraone, Balzabù e Ruciglione, che diceno tutti di none. Favellò è il vescovo in primieri. Fatti innanzi e giura, Ruggeri. Perché mangiastù l'altrieri coi pattarini crudeli e feri, che sono peggio che giuderi? Ed io presi a favellare. Messere, volentieri voglio giurare, non credea che fussero di tale affare. Omo di mia arte non si può scusare chi l'on vita che non vada a mangiare. Quelli rispose incontenente. Non te può aiutare niente, né uno amico né parente, ch'io non ti faccia star dolente, sicché non te rimarrà niente. Ed io dissi, per Deo non dite, io faccio ciò che voi volete, pegno né ricolta da me prendete, sì il fo mai. Sì, mi impendete. Rispose il fellone maledetto. Noi Non volemo tuo disdetto, e cai a negare ciò c'hai detto. Noi te faremo povero e bretto, sicché non ti rimarrà casa né tetto. Ed io risposi in bassa voce: mercè per Deo che venne in croce, che sto fuoco assai mi cuoce. A voi non giova e a me si nuoce. Questo disse il creatore. Quando gli ritorna un peccatore, ei ne fa maggior baldore che di 100 giusti a tutte l'ore. Ed egli rispose con grande furore: tu sei fatto un gran predicatore, novelliero e dicitore. Di noi mal dici a tutte l'ore, ma non mi nuoce ch'io so signore. I mi fui raveduto. Quando io dissi avea bevuto, così fussi io stato muto. Se io peccai, io ne so pentuto, ed a voi mi sonno arrenduto. In quell'ora a me si volse: sempre avesti parole molte, io ti metterà bontà gli volte che fieno peggio che morte. Rispose un altro in issa via e disse in quella via: non è questi quel Ruggeri ch'io audii e vidi l'altrieri cantare innanzi cavalieri di noi come semo crudeli e feri? Rispose un altro dall'altra parte che non era di mia arte: non guarisca, anzi sia morto, non i sia fatto dritto, anzi torto. Non guarisca, anzi sia morto, non i sia fatto dritto, anzi torto. Partite, amore, addio, che troppo sei stato, lo maitino è sonato, zurno mi par che sia. Partite, amore, addio, che non fossi trovato in sì fina cellata come noi siamo stati, or me passa, o Clomeo, tosto sia l'andata, tenendo la tornata come d'innamorati, sì che per spesso usato nostra soglia rinnovi, nostro stato non trovi la mala celosia. Partite, amore, addio, e vane tostamente, con tua cossa taso pariclata in presente. E l'avventura sempre scende e sale, tosto avviene all'uomo bene e male. Venite, polcel amorosi, Madonna, vinita la danza, mostrati la vostra allegranza, siccome vu siti zoiosi. Venite, polcel, a ballare, facendo la rota venir, la gente farita allegrare, mostrati lo vostro savire. Per il ciclo Teatro Nazionale Italiano abbiamo trasmesso «E l'avventura sempre scende e sale, tosto avviene all'uomo bene e male». Scene e momenti dello spettacolo giullaresco nell'Italia del 2300. Hanno partecipato gli attori Isa Di Marzio, Enrico Di Troia, Laura Frangini, Claudia Giannotti, Franco Graziosi, Brizio Montinaro, Mafalda Valle e il soprano Ille Strazza con il flautista Antonio Addamiano. Ricerche musicali di Ille Strazza. Ripresa stereofonica di Raffaele Vincenti. Assistente alla regia Luciano Laudati. Organizzazione di Gabriella Pazzaglia. Regia di Giuseppe Venetucci. Un Ancora Anna Rosa Mavaracchio dai microfoni di Radio 3 per comunicare agli ascoltatori che non l'avessero già appreso dai giornali che il professore Eugenio Battisti è scomparso improvvisamente pochi giorni dopo la realizzazione del programma appena andato in onda. A ricordarne l'eminente figura di studioso ed intellettuale impegnato, abbiamo chiamato in studio il professor Corrado Bologna, che recentemente l'aveva intervistato in occasione della ristampa aggiornata presso Garzanti del suo classico Antirinascimento. Professor Bologna. Sì, avevo intervistato non molti giorni prima della sua scomparsa Battisti, che era come sempre caratterialmente festoso, vivace, curioso, sempre ludico, come il teatro, la teatralità, la drammatizzazione del testo fossero imprescindibili. Stava studiando dei laudari che aveva inserito in un programma di computer molto interessante. Era un uomo anche molto attento alle macchine moderne, quindi all'attualizzazione degli strumenti. Attraverso il computer riusciva a portare a galla proprio quell'elemento di dramma, inteso come gestualità e come vocalità, che sono i tratti perduti ovviamente al di sotto dei testi. Ecco, lui riusciva nei dialoghi che abbiamo avuto a questo proposito insieme, e poi sentivo anche nelle realizzazioni, per esempio in collaborazione proprio con la Radio 3, riusciva a far riemergere questo tanto di caotico, nel senso migliore del termine, il caos come il mettere in movimento un ordine solo apparente, che spesso è la stratificazione che il testo ha lasciato. Sotto c'è ancora un germe vitale. Ecco, direi che proprio così nell'Antirinascimento, come poi nei lavori su Brunelleschi, su Piero della Francesca, sempre questa volontà di smuovere gli ordini costituiti, ma precostituiti, tutto sommato troppo spesso a suo avviso un po' figei, un po' bloccati, è stato poi in fin dei conti il suo grande modello di comportamento anche nella ricerca. Grazie Corrado Bologna. In omaggio quindi al professor Battisti, che ne è stato il promotore, oltre che su richiesta dei nostri ascoltatori, proseguiremo, come abbiamo già detto all'inizio, il nostro ciclo di Teatro Nazionale Italiano. Appuntamento al prossimo sabato con La Cauteraria. Thank you.